24 mattino estate con Irene Zerbini. Siamo ancora in diretta, buongiorno, buongiorno da Irene Zerbini, da tutta la redazione di Radio 24. Ci ritroviamo oggi per parlare di Unione Europea, spostiamo l'asse leggermente nel corso di 24 mattino estate dai problemi strettamente legati alla crisi, parliamo infatti di muri. E si celebra in questi giorni il 50° anniversario dall'inizio della costruzione del muro il 13 agosto in Germania. Se ne sta costruendo un altro, forse un muro più metaforico che di mattoni, ma un muro che comporta delle realtà molto tangibili. Infatti, lungo il confine tra Danimarca e Germania sono state installate una serie di impianti, una serie di controlli, soprattutto decisamente anomali in quello che è il trattato di Schengen e che sanciva, stabiliva la libera circolazione delle merci e delle persone. I viaggiatori che stanno attraversando il confine tra i due stati in questi giorni sono sottoposti a controlli e poi devono attraversare queste barriere, passaggio a livello. Se ne sta occupando tutta la stampa europea. La scelta dei governanti danesi avrebbe lo scopo, questa è la loro giustificazione, insomma, di controllare l'afflusso di criminali est europei o contrabbandieri, ma naturalmente questo tipo di operazione non è piaciuto alla Germania. Alcuni politici tedeschi addirittura hanno invocato il boicottaggio della Danimarca. Avremo un'Europa ancora divisa da dogane da qui a breve. Oggi ne parleremo in 24 mattino con il console generale aggiunto tedesco in Italia, Bernard Eduard Hauer, e Rocco Antonio Cangelosi, ex ambasciatore e consigliere di Stato. Sentiremo poi testimonianze dalla Danimarca. 24 mattino estate con Irene Zerbini. Circa un quarto degli italiani, precisamente il 24,7%, più o meno 15 milioni di persone facendo i conti, sperimenta il rischio di povertà o di esclusione sociale. Questi dati sono dell'Istat nel suo rapporto annuale. Nel dettaglio, il rischio povertà riguarda circa 7 milioni e mezzo di individui, cioè il 12,5% della popolazione, mentre un altro 1 milione 700 mila persone sono in condizioni di grave deprivazione e 1 milione 8 vivono una condizione di intensità lavorativa molto bassa. Perché questo scenario così deprimente? Perché oggi ci occuperemo proprio di questo, dei costi e di eventuali tagli da fare alla politica. Si è parlato anche nella nostra trasmissione in questi giorni, ma è passato sotto silenzio il taglio disinvolto ai fondi stanziati per le politiche sociali all'interno della finanziaria, quelli previsti a livello nazionale sono stati dimezzati, sono passati da 380 milioni stanziati per il 2010 a 178 per l'anno in corso, meno welfare e soprattutto sindaci e amministratori locali completamente al verde per finanziare progetti per l'inclusione sociale. Tra pochissimo alle 8:30 in 24 mattino estate, ora però andiamo a incontrare il nostro corrispondente straniero. Visti da fuori. Buongiorno, buongiorno a Wolfgang Achtner. Buongiorno. Benvenuto, naturalmente. Qualche parola su di te: documentarista, giornalista freelance, collaboratore di tutte le più prestigiose testate internazionali. Alcuni hanno detto: ah, ma il cognome sembra tedesco, in realtà sei completamente americano, anzi di New York, vieni da una nazione in cui non è certo il cognome o la vocale finale a connotare l'appartenenza, dico bene? Beh, dipende. Gennarino Scognamiglio potrebbe essere un nome americano. Tutti i nomi sono americani, perché l'America e gli Stati Uniti sono un paese di migranti, quindi in realtà tutti i nomi sono nomi americani. E questo succederà probabilmente, ci vorrà ancora qualche decennio, ma anche qua ci si sta abituando al fatto che gli italiani non si chiamano per forza Rossi di cognome. Wolf, quello che vorremmo chiederti innanzitutto è qualche dato per collocarti, visto che non ti vediamo, dobbiamo dare qualche colore. Da quanto tempo sei in Italia? Ci sono cresciuto da ragazzo, perché mia madre ha risposato un italiano di Rimini e quindi io sono arrivato in Italia alla fine, nella seconda metà degli anni 50. Quindi ho visto la fine della ricostruzione, il boom l'inizio della lottizzazione, eccetera. Ho visto molte cose, le conosco bene, le ho viste di prima persona, ma soprattutto poi ho lavorato in molti altri paesi europei e non solo, per alcune network americane, e questo mi ha citiamo dato la CNN, citiamo la CNN, citiamo ABC News, citiamo il fatto che tu sia stato corrispondente per The Independent, hai lavorato anche per la TV globale, satellitare, Press TV. Sì, tra l'altro una televisione di Stato iraniana in inglese, diretto al mondo, e quindi interessante per due cose. Uno, che io ho potuto lavorare per una televisione iraniana senza censure, cose che non sarebbe possibile per una televisione italiana, e soprattutto che tutte le nazioni del mondo che ritengono di avere qualcosa da dire o di avere, diciamo, un messaggio anche culturale nonché politico da rivolgere al mondo, hanno una loro televisione in lingua inglese, una televisione globale, sottolineo, che viene trasmessa in tutto il mondo via satellite, via internet. Addirittura hanno una televisione globale in inglese i francesi, e questo fa capire l'universalità della cosa, ma ce l'hanno i cinesi, i russi, eccetera. L'unica nazione che si dà molte aree, che però poi alla fine non ha una televisione di questo genere, è l'Italia. E quello che si ascolta molto all'estero non sono solo le TV provenienti dai vari paesi in inglese, ma anche le radio. Ci sono servizi radiofonici. Sì, certamente. E tu hai sottolineato il paradosso della libertà di cui hai goduto, e non solo tu e i tuoi colleghi nella TV iraniana Press TV, che poi tra l'altro in Nord America è anche una fonte di notizie per moltissimi altri giornalisti, e hai fatto un passaggio polemico sul fatto che probabilmente in Italia non avresti goduto della stessa... No, non è polemico, è un'osservazione di dati di fatto. Quindi, in Italia non c'è informazione televisiva. Se parliamo di telegiornali, ciò che va in onda è il peggio che c'è nel mondo occidentale, forse non solo, per quanto riguarda il contenuto informativo che è assente, quello che viene trasmesso è propaganda, e dal punto di vista qualitativo questo è senza dubbio il peggio che c'è. E come lo spieghi? Perché i telegiornali italiani esistono per far vedere le facce dei politici alle 8 di sera, fondamentalmente, e nella loro omogenea, diciamo, cattiva qualità non si fanno concorrenza, ma danno voce un po' di più a un colore politico piuttosto che a un altro, ma l'omogeneità è ciò che li caratterizza, ovvero sia il fatto che guardando un telegiornale italiano non solo non si ha informazione, ma non c'è l'Italia in questi telegiornali, le telecamere sono rivolte al palazzo, punto. Al palazzo dietro il giornalista, e tu hai più volte fustigato questo modo di fare informazione all'italiana, appunto, come hai sottolineato, a prescindere dal contenuto, anche la conoscenza televisiva di quello che è il mezzo. Non c'è. D'altronde, come si può pretendere, visto che tutto ciò che è pubblico è stato lottizzato, a parte il fatto che quella dei giornalisti è una corporazione semi-mafiosa di potere di tipo feudale, ma come si può pensare, se in nessun altro campo c'è la capacità, come e necessità per entrare alle ferrovie, all'Italia, che oggi sono distrutte, e si assumeva 6 persone al posto di una, il management era incapace, ma di provenienza politica, eccetera. Questo era lo stesso in Rai, per cui la capacità non è stata richiesta, capacità giornalistica o tecnica, ma era richiesto, tra virgolette, l'affidabilità, ovvero sia la disponibilità a lanciare messaggi politici per il proprio sponsor o partito chiamato di riferimento, punto. E non c'è nessun direttore di telegiornale italiano che abbia la più pallida idea di che cosa sia un telegiornale o un servizio televisivo. Wolfgang, prima che di salutarti, perché ora il tempo stringe, riesci a pensare con grande fatica, immagino, qualcosa di positivo, qualcosa che si può salvare di questa tua esperienza italiana, che magari importeresti addirittura a New York? Ci sono molte cose positive, ma anche riguardo all'informazione, vorrei... le piccole e medie imprese italiane, che sono straordinarie, ma anche persone normali che lavorano, non sono tutti persone che hanno approfittato, che hanno rubato stipendi, quelli sono decine di milioni, ma poi ci sono stati gli altri italiani che hanno costruito qualcosa. In più ci sono tutti gli italiani all'estero espulsi dal proprio paese, perché in Italia è impossibile essere giudicati in base ai propri meriti. Uno dei paesi che esporta il maggior numero di laureati all'anno, senza colpo ferire, ovvio, senza nessun grido d'allarme. La capacità non viene mai messa in gioco, la capacità è anche la voglia di lavorare e o di sacrificio, per cui contano sempre le altre cose. Wolf, grazie, ma dobbiamo proprio salutarti. Speriamo di avere altre occasioni per approfondire Lakhner Pensiero. Avete sentito, è un giornalista televisivo, documentarista di New York, autore di libri e docente di giornalismo televisivo, oltre che corrispondente freelance di numerose testate. Ritorna domani mattina alle 8:20, Visti da Fuori. Mattino Estate. 35 minuti dopo le 8, ancora buona giornata da Irene Zerbini. Avanzano le nuove povertà e intanto si dimezzano i servizi sociali. I dati Istat li abbiamo già snocciolati brevemente per riassumere i più significativi. In Italia l'11% delle famiglie è relativamente povera, il 4,6% lo è in termini assoluti. Una politica di contenimento dei costi in questi giorni viene ripetuto, deve essere fatta, sono stati però tagliati disinvoltamente tutte quelle voci, tutti quei fondi che andavano a finanziare proprio le politiche sociali e il fondo per la famiglia. Eppure di famiglia pochi governi hanno parlato in maniera così ripetuta, ridondante e quasi innamorata come il governo attualmente in carica in Italia. Ci sono stati dei veri e propri appelli alla famiglia, convegni sulla famiglia. E in questa situazione, quando si parla di famiglia, ricordiamolo, non è un modello che prevede mamma, bambino, due figli di sesso diverso. Oggi come oggi, molte famiglie sono monogenitoriali, ci sono famiglie in cui un bambino può vivere per esempio con i nonni, figli che vivono con la mamma e il fidanzato, con il papà e il fidanzato, anche perché no. Di conseguenza è necessario che la politica si adegui a quella che è la realtà che ormai l'ha superata. Noi in diversi consigli regionali abbiamo assistito a una sorta di rivolta, in diversi consigli comunali abbiamo visto i sindaci marciare, perché poi quelli che lavorano sul territorio con i servizi alla persona sono proprio gli amministratori locali. Si è parlato tante volte di visione del futuro e vogliamo chiedere a Irene Tinagli, editorialista della Stampa e con vasta esperienza internazionale. Buongiorno innanzitutto, benvenuta Irene. Buongiorno. Quanto costa, se è una spesa, non investire invece nel sociale, non arginare le forme di povertà, favorirne la cronicizzazione, lei che è anche un economista? Ma moltissimo, molto più di quanto molto spesso si creda. Su questo fronte ci sono numerosi studi, ora adesso nel caso specifico dell'Italia non è che uno è difficile fare una quantificazione, monetizzare ad oggi, però moltissimi economisti, per esempio anche il premio Nobel James Heckman, per esempio lui si è focalizzato sui bambini e la cura all'infanzia e quanto questo possa per esempio prevenire delle situazioni di disagio, possa aiutare i ragazzi che crescono in situazioni difficili poi ad inserirsi nel mondo del lavoro, a prevenire situazioni sociali che poi non ci dimentichiamo, paghiamo noi, cioè la società, tutte le situazioni di disagio che poi sfociano in criminalità, in emarginazione, in ulteriore assistenza, perché chiaramente uno Stato civile non è che può non affrontare questi problemi. Queste sono tutte cose che costano tantissimo allo Stato e costano molto di più dopo che si manifestano, piuttosto che cercare di arginarle prima con delle politiche sociali attente, accurate, fatte sul territorio. Non ci sono però più risorse, dicono da Roma. Ma le risorse per le cose che vogliono le trovano sempre. Sono stati fatti dei piani di tagli secondo me molto discutibili, non solo in quest'ultima finanziaria ma un po' in tutti questi anni. e quindi ci sono sicuramente ci sarebbe stata la possibilità di intervenire in maniera più decisa sulla razionalizzazione dello Stato. Non ci dimentichiamo che solo pochi mesi fa sono state rifiutate proposte per abrogare le province, per riorganizzare gli enti territoriali, per abolire enti inutili, per limitare vitalizi e privilegi ai parlamentari. Ora se ne riparla, però sono anni che se ne parlava e sono state respinte tutte le proposte in questo senso, mentre invece sono state si è continuato a fare tagli sul fronte del sociale, eccetera, eccetera. Per cui secondo me le risorse si possono trovare. Buongiorno ad Alessio Cardinale, segretario nazionale della Diantum, è un'associazione che riunisce diverse associazioni che si occupano di minori e di genitori separati. Ora, in alcune regioni è stata fatta una proposta di sostegno economico a favore dei coniugi separati, a sostegno dei padri. Perché? Perché statisticamente i padri sono la parte economicamente sfavorita nell'ambito di una separazione, a causa di prassi giudiziarie che non tengono conto dell'evoluzione della società, soprattutto del ruolo genitoriale paterno, che oggi ha un'importanza riconosciuta sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista della cura filiale. Beh, non sono sempre soltanto i padri la parte sfavorita, diciamo che è un fenomeno nuovo vedere queste richieste continue di assistenza da parte di genitori separati che versano in gravi difficoltà. Cosa vede lei dalla sua associazione? Ci racconti qual è il fenomeno che osserva? Il fenomeno che osservo, come dicevo prima, è che statisticamente la parte sfavorita, lo ribadisco, è quella purtroppo. Sì, sì, ma questa è una tesi finché non lo dimostriamo. Ci spieghi cosa osserva, ci racconti una storia o delle storie che vede. Sì, a parte il fatto che è ampiamente dimostrato. Comunque sia, le storie sono diverse, che riguardano sia uomini che donne. Le nuove povertà sono in questo momento vedono in maniera molto più chiara quella degli uomini, perché per la prima volta negli ultimi anni gli uomini si sono affacciati all'assistenzialismo, comportamento che prima veniva visto un po' in maniera con un certo imbarazzo, con un certo pudore. Cioè, cosa fanno oggi che non facevano prima questi uomini, questi genitori allora, separati? Il problema è questo, che il genitore separato uomo nella maggior parte dei casi esce fuori dall'abitazione e quindi ha un problema che è un problema di vita importante, è quello di trovare una nuova abitazione, che si aggiunge ai problemi emotivi che derivano dall'allontanamento dalla prole, dai figli, dai compiti educativi e di cura. Per quanto riguarda il problema strettamente economico, la maggior parte delle coppie oggi non è più monoreddito, ma è con due redditi. Il problema è che i redditi, quando ci si separa, non bastano più e si impoverisce tutta la famiglia. Per le doppie spese che ci si trova a sostenere. Grazie ad Alessio Cardinale, rimanga con noi. E dunque, nelle fasce dei nuovi poveri si affaccia, e questa è un'esigenza registrata sul territorio. Do il buongiorno anche a Mario Barboni, consigliere regionale della Lombardia. Si affaccia questa nuova forma, questo nuovo bisogno. E cosa avete fatto voi in Lombardia per sostenerlo? Allora, in Lombardia per sostenerlo abbiamo presentato una proposta di legge, appunto, che vuole andare a cercare intanto di approfondire davvero nel modo più completo questa nuova realtà e soprattutto fare in modo che queste nuove esigenze che nascono da questo numero di separazioni che è molto alto non porti a delle nuove povertà. Ci stiamo già incamminando su quella strada, nel senso che abbiamo da dati oggettivi, da riscontri oggettivi, che addirittura alcuni di questi genitori devono andare alle mense la carta per poter mangiare, in quanto... E questo è un esempio però significativo dei cambiamenti della società italiana e di come la politica debba intercettare questi bisogni. Tornando a lei, Irene Tinagli, quali sono secondo lei le strade da percorrere che siano economicamente sostenibili? Ma Guardi, qua ci sono, se ne è parlato nei giorni scorsi quando si parlava di manovra, insomma di correttivi, eccetera, eccetera. Quello che molti economisti dicono è che prima di tutto bisogna iniziare a tagliare un po' sulle spese anche di funzionamento dello Stato, che in questo momento ancora è molto pesante, e su quel fronte lì è stato fatto pochissimo. Un po' di liberalizzazioni, un po' di mercato, soprattutto nei servizi, perché anche questo non ce lo dimentichiamo, tante delle spese che le nostre famiglie sostengono per i trasporti, per l'energia o per altri servizi, spesso sono legate a delle inefficienze perché non sono mercati poco che non funzionano bene. E poi ritrovare anche delle politiche sociali, secondo me, un po' più incisive, nuove, non meramente assistenzialiste, perché non è che si può pensare di intervenire in ogni singolo caso erogando semplicemente l'assegno, lei dice. Però, infatti, no, queste sono misure, anche perché poi alla fine si rischia, anche come abbiamo visto in anni passati, si rischiano anche abusi, ma ci sono delle misure più, come dire, attive, che aiutano le persone, per esempio, a formarsi, a inserirsi nel mondo del lavoro. Su questo noi non abbiamo fatto molto, abbiamo fatto abbastanza poco, cioè negli anni passati ci siamo limitati a degli ammortizzatori un po' di ultima istanza, in alcuni casi più estremi, o assegni, però non siamo stati abbastanza bravi a fare delle politiche davvero attive, quindi che aiutano le persone quando lavorano, quando devono reinserirsi nel mondo del lavoro, i servizi per l'infanzia, certo, il coinvolgimento delle famiglie, l'istruzione è una cosa fondamentale, su quello secondo me si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più, non solo all'università, di cui si è parlato tantissimo, ma proprio nella fase dei primi anni di vita. Il welfare all'italiana è il nonno o la mamma. Ecco, infatti quello secondo me è un nostro punto molto debole, perché noi deleghiamo sempre tutto alle famiglie. Le famiglie ora non solo non ce la fanno più, ma nel mondo come oggi non bastano tanti servizi per la crescita dei bambini, per la loro formazione. Non si può pare che tutto anche nei primi anni di vita si possa fare all'interno della famiglia. Bisogna, secondo me, su questo intervenire molto, proprio perché non per aiutare, per fare un favore alla mamma. Sì, perché così viene vissuto. Ma no, questi sono servizi che si fanno non per fare un favore alla mamma, ma per formare i cittadini e la forza lavoro del futuro. E su questo e anche aiutare l'indipendenza e l'inserimento della donna, cioè non è certo blasfemo. Però sono degli interventi che aiutano la società e anche l'economia a crescere. 24 mattino estate. E delle parole del Presidente del Consiglio di ieri si occuperà e svolgerà un'analisi Gianfranco Fabi alle 9, a 9 in punto. Siamo concentrati su un aspetto, un capitolo di questi tagli della manovra che è passato un po' sotto silenzio, cioè i tagli alle politiche sociali. L'ultima manovra finanziaria infatti ha cancellato il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per i nidi, per la famiglia, e una manovra che invece, stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, era stata ispirata proprio dal buon senso del padre di famiglia. Tornando al consigliere regionale Mario Barboni, lei e voi avete invocato appunto nuovi interventi di sostegno economico e a favore dei coniugi separati e a favore di altre fasce deboli, ma è necessario, si dice, tagliare i costi, anche i costi della politica, anche i costi per persone e attività come la sua, Barboni. Sì, è vero, noi ovviamente siamo stati, penso, tra i primi, abbiamo depositato un progetto di legge in Lombardia che prevede un taglio dei consiglieri regionali dal 10%, ma non solo, prevede anche appunto un taglio sull'indennità di fine mandato e soprattutto l'abolizione del cosiddetto vitalizio, che ci pare che sia proprio un pochettino un'esagerazione. È stata presentata questa proposta, è stata depositata? Sì, è stata depositata, è stata presentata fine del mese di giugno e dovrebbe essere portata in commissione referente, quindi una commissione prima regionale, penso già ai primi di settembre. Mi pare che nel frattempo anche altri gruppi politici nostri abbiano depositato delle loro proposte di legge di modifica, appunto, diciamo così, dei costi, tra virgolette, della politica. Tornando al taglio delle politiche sociali, come è messa la Lombardia? Qual è il budget che avete a disposizione? Ma nel taglio alle politiche sociali stanno su, soffriamo complessivamente di un taglio che è intorno al 25% rispetto all'anno 2010, ma la cosa che ci preoccupa, che ci ha preoccupato, è questo primo taglio che sicuramente comporterà delle significative fatiche da parte delle amministrazioni locali, quindi dei comuni, a sostenere tutto l'impianto dei servizi sociali, anche perché poi, diciamocelo chiaramente, non è che i comuni si divertano ad esercitare i servizi sociali, cioè non lo fanno per uscirne fuori belli, ma lo fanno perché è un'esigenza e una necessità dei cittadini. Anzi, crediamo che ce ne sarà più bisogno, più andremo avanti, più la popolazione invecchia, più tutta una serie di ragioni portano ad avere più necessità di servizi sociali. Cioè gli amministratori locali, quelli che sono sul territorio, quelli che vivono le esigenze quotidiane del cittadino, si trovano al verde e non solo non possono più finanziare nuove eventuali iniziative, ma addirittura si trovano a dover bloccare progetti avviati che stavano dando risultati. Sicuramente si trovano a avviare progetti avviati, ed erano progetti in alcuni casi volti sicuramente all'aiuto delle famiglie numerose, all'aiuto delle famiglie problematiche, in aiuto alla disabilità e soprattutto anche ai disagi, che anche questo è un fenomeno sottaciuto, se non trattati con sufficienza dai servizi sociali, portano poi a dei costi sanitari decisamente molto, ma molto più elevati. Ecco perché noi chiediamo davvero che il governo in questo momento ponga la sua attenzione in modo particolare alle necessità della gente, alla necessità dei cittadini, più che ad altre necessità che ci sono, ma che riteniamo la priorità debba essere data al cittadino. Ecco, questo sicuramente. E noi diamo, proviamo a dare il buon esempio dando la priorità rispetto a lei, che è un politico eletto e quindi legittimato a esprimersi, anche ai cittadini che ci chiamano. Abbia pazienza, consigliere regionale, perché con noi c'è da Roma Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. La ringrazio innanzitutto per la possibilità che mi offre. Dov'era? Io volevo portare la testimonianza, diciamo, di una delle famiglie tipiche. Io vivo con la mia compagna, abbiamo un bambino piccolo, insomma, sì, in età da nido. Purtroppo siamo stati costretti a rivolgerci a delle strutture private perché per l'assenza, diciamo, di posti in quelle comunali, in sostanza. E quanto incide sul vostro reddito la retta che pagherete a questa struttura privata, più o meno? Guardi, calcoli che è abbastanza, un 30% del nostro reddito, in sostanza. E questo per poter lavorare entrambi? Sì, tenga pure conto del fatto che diciamo, la mia compagna ha un contratto di quelli flessibili, di quelli nuovi di cui si parla, certo, tanto bene in economia, e quando il piccolo sta male abbiamo dei grossi problemi perché non c'è nessuna tutela per la madre. Tenga conto che durante il periodo dell'allattamento non ha avuto diciamo diritto alle ore di allattamento con il contratto. Quindi, chiaro, queste sono realtà a volte poco note, ma che invece affrontano la maggioranza delle giovani donne. Antonio, grazie per questa importantissima sottolineatura. 800 24 00 24. Roberto, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Roberto, non si scoraggi, parli. Sì, sì. Ascolti, io mi sono permesso di disturbare, che ho visto che c'è lì l'assessore della regione Lombardia. Sì, sì, gli faccio una domanda, visto che la rappresenta, lei è da Milano. Ok, io sono un padre separato, pago una retta alla figlia, pago un affitto, sono al limite del vivere. Volevo sapere più o meno che lavoro fa, scusi, tanto per sapere, che non parlare con magari un miliardario. No, io vendo automobili in una concessionaria, dove sappiamo benissimo cosa sta succedendo negli ultimi anni, no? Quindi è diminuito quello che è le vendite. Certo, la domanda che fa dunque il nostro consigliere regionale? Capire se la regione Lombardia, non so, fa qualche cosa per queste situazioni. Io mi sono già rivolto al mio comune, che a settembre dovrebbe farmi sapere qualcosa. volevo capire se anche la regione Lombardia ha un qualcosa del genere. Sottolineiamo che lei non vuole smettere di pagare il mantenimento alla figlia, insomma, per l'amor di Dio, è un padre responsabile che si trova ad affrontare delle difficoltà, no, visto che è una categoria quella dei padri che volevano evadere le proprie responsabilità, che ha caratterizzato forse più gli anni precedenti, però che ha segnato la vita di molte donne separate, è una sottolineatura che va fatta. Grazie Roberto, grazie a lei Mario Barboni, il consigliere regionale chiamato in causa dal cittadino, direttamente risponda. Sì, diciamo che il nostro progetto di legge prevede appunto un intervento non contemporaneo da parte di Regione Lombardia, ma che può protrarsi fino a 3 anni, anche oltre i 3 anni, per diciamo i primi impegni economici che poi appunto si evidenziano. Ma un intervento di che tipo? Cosa farete per questi padri o madri, se fosse viceversa, che si trovano in difficoltà? Attraverso la mediazione dei servizi territoriali, quindi dei servizi comunali, l'erogazione di un voucher che sicuramente sarà in termini monetari A sostegno dell'affitto, immagino. Grazie. A sostegno dell'affitto, ma non solo, anche chiediamo e faremo in modo che la Regione Lombardia si attivi perché ci siano delle possibilità di housing sociale proprio riferite. Quindi anche case popolari per questo segmento della popolazione. Un esempio concreto per cui la ringrazio, grazie a Mario Barboni, a Irene Tinagli, Alessio Cardinale, tutti voi che ci avete seguito. Torneremo con 24 Mattino Estate alle 7:15 domani. Buona giornata da Irene Zerbini.